appassionato di opera e di musica classica, che quando scendeva all'Actor Studio, due volte a settimana, il martedì e il venerdì, a moderare le classi di questo famoso posto, che è una chiesa sconsacrata con 100 posti, è come un teatro off di Roma, non è che... Però faceva della chirurgia su tutti quelli che passavano in scena, su tutti gli attori che portavano monologhi o scene, faceva una specie di analisi chirurgica di tutto quello che avevano fatto, e questa cosa mi ha molto impressionato, ecco. Quindi era un grande maestro di questa scienza, che poi non è una scienza, ma che è il tentativo forse folle di insegnare a qualcuno a recitare. E tu hai studiato con lui per molto tempo? No, io non ho studiato direttamente con lui, ma ho studiato per molti anni con due insegnanti che vengono da quella tradizione, e quindi una delle quali è Susan Batson, che è tuttora insomma una coach molto conosciuta negli Stati Uniti, la coach di Nicole Kidman, Juliette Binoche, più, chi più ne ha più ne metta. E ho studiato con lei, e insieme abbiamo anche fatto due progetti. Uno l'abbiamo fatto ad Amburgo, che era una sua rivisitazione dei Bassi Fondi di Gorky, e uno l'abbiamo fatto a New York, che era un mio testo che si intitola Zoo Paradiso, ambientato nell'assedio di Sarajevo, e che è un testo che rifarò quest'anno a novembre per il ventennale dell'assedio di Sarajevo. E noi ti verremo a vedere. E poi ti volevo chiedere, il cinema, il teatro, anche la televisione, la scrittura, quali di questi impegni viene prima per te? Beh, negli ultimi anni la scrittura e la possibilità, quando c'è, di mettere in scena dei testi è la cosa che sto seguendo più di più. È un lavoro, diciamo, più indipendente, creativamente più indipendente, no? Rispetto al lavoro di attore, che spesso non si concilia né con l'indipendenza né con la qualità. E invece Alba, volevo chiedere, ma tu vai ancora a scuola, però hai già lavorato nel cinema e anche a teatro, sempre sì, con papà. E qual è la strada che vorresti percorrere dopo la scuola, quando finirai il liceo o l'università? Io vorrei tanto studiare recitazione e, cioè, diciamo, lavorare come attrice. Bene, allora mi sembra che hai iniziato bene, quindi ti auguro ogni bene. Ma la musica per adesso non è una grande passione, diciamo. Senti, forse questa però è una domanda che è un po' ripetitiva, perché forse avete già risposto, ma io vi volevo chiedere, sia a Riccardo che ad Alba, che rapporto avete con le favole, dal punto di vista di un papà e dal punto di vista di una figlia. Ma guarda, le favole sono state materia di studio quando ero all'università, quando leggevo i testi degli strutturalisti russi, che avevano, diciamo, capito che le favole erano in realtà la rivisitazione e, come dire, la divulgazione anche dei miti, no? E quindi mi aveva molto affascinato questo tema delle favole, anche come, soprattutto come forma di insegnamento per i bambini, perché per esempio nella tradizione sufi le favole sono un modo per insegnare ai bambini a pensare lateralmente, cioè a vedere il pensiero in una maniera non verticale, ma a più facce, vedere più facce di una stessa cosa. E mi ha sempre affascinato il fatto che le favole possano essere un veicolo per formare la mente, no? Grazie, grande Riccardo, bellissimo. E invece Alba? Ma per me, diciamo, quando ero piccola, i miei genitori mi leggevano spesso le favole. Cioè, a me piacciono, però adesso non so, è un po' diverso. Senti, e se dovessi interpretare un personaggio di una favola in un film o in uno spettacolo teatrale, quale vorresti interpretare? Quella della principessa. Vabbè. Vedi, gli archetipi non si spostano. Pensavo che volessi interpretare un orco con quella faccia da cattiva. No, no. Va bene, Fede, siamo quasi in dirittura di arrivo. No, ero interessato a questo lavoro che farai quest'inverno, perché tra l'altro noi abbiamo come radioteatro ospitato un tuo testo precedente sul carcere, in quello specifico. Sì, era un testo di teatro inchiesta, più, diciamo così, meno di fantasia e purtroppo più vicino alla cronaca insomma, di questi anni via. Però non è che Sarajevo non fosse, però in questa operazione su Sarajevo c'è molta della mia fantasia, perché io l'ho scritto senza essere mai stato a Sarajevo a suo tempo, però ero rimasto colpito molto da un piccolo trafiletto di cronaca in cui in quegli anni si diceva che l'ultimo animale dello zoo di Sarajevo era morto perché non poteva essere nutrito dai guardiani, perché questi poveracci erano sotto tiro dei cecchini cetnici, no? E questa notizia mi aveva colpito parecchio, ha ispirato questo testo. Oh, io vorrei ricordare due appuntamenti, Ottavia, e tra l'altro vorrei che tu ci fossi chiaramente. Domani c'è la festa della radio. Esatto. La mano sul cuore 2, questo è il titolo della serata, festa per i 35 anni di Radio Onda Rossa al centro sociale La Torre in via Bertero 13 a Casal dei Pazzi. Ci saranno con noi, con letture, corti teatrali e musica, gli Art Decore che abbiamo sentito verso 1:30 qui ai nostri microfoni. Poi ci sarà Elio Germano, Valerio Aprea, Gianni Palomba, Daniele Emilio, Leonora Danco, quindi una bella serata. È la seconda edizione, perché già 1 anno e mezzo fa facemmo un primo Una mano sul cuore. Questo, ci sono ancora una volta Gianni Palomba ed Elio Germano, gli altri sono cambiati, però insomma è un atto d'amore anche verso la città. E poi c'è domenica che Stona Favola va in strada. Sì, saremo a Via Bertani per il Bertani Dai e ci saranno... Guarda, se vuoi leggerli tu, li ho segnati lì. E ci saranno tre letture fatte da Pietro Sermonti e Margherita Vicario, intorno alle 12, intorno alle 16 da Francesco Bonomo ed Emiliano Duncan, o Duncan? Non so. Duncan Barbieri, e intorno alle 16, sempre a seguire dopo Francesco Bonomo ed Emiliano Duncan, Alessandra Della Guardia e Fabio Massimo Colasanti. Pietro e Margherita interpreteranno Hansel e Gretel, Francesco e Emiliano Volkslieder canti popolari e Alessandra e Fabio interpreteranno I vestiti nuovi dell'imperatore. Diamo anche qualche altra indicazione rispetto a Via Bertani, perché si svolgerà tutto in strada, all'aperto, è una giornata per i bambini, ma è trasversale, dalle 10 di mattina alle 22 di sera, quindi 12 ore per stare insieme a Trastevere. Via Bertani è la strada che collega Piazza San Cosimato a Via Mameli. Noi saremo lì, vero? Certo. Porterai anche i tuoi figli stavolta. Certo. Saranno con me anche Vasco e Fiore, sì. Benissimo. Spero anche domani, così, no? O forse si fa un po' tardi. Sì, no. Allora, grazie Riccardo ed Alba, salutiamo, diamo appuntamento alla settimana prossima. Sì, grazie mille per questa bellissima favola e per averci tenuto compagnia. E noi ci sentiamo a giovedì prossimo, sempre alle 15, sempre su Radio Onda Rossa, con Claudia Pandolfi, che ci leggerà delle favole di Pippi Calzelunghe.